24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci alle 6:34 minuti, siamo caldi e pronti fino alle 9 come di consueto il nostro 24 mattino, la nostra Miriam Lucchetti in redazione, lì col nostro Alpino in regia, Peter Bescapè e il nostro mantra quotidiano. But please relax. Che ci proviene dall'alto. Siamo pronti ad aprire il nostro bar con la nostra Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Che attenzione, udite, udite, pare, dicunt, tradunt, ferunt, si voglia ricandidare al Pirellone, stavolta con le preferenze. Saluto il direttore Vincino, buongiorno e ben ritrovato, ben svegliato, eccoci qua, direttore del Male insieme a Vauro, le presento il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, che saluto, buongiorno Maurizio. Buongiorno Alessandro, grande ammiratore di Vincino. Certo, oggi Vincino ha fatto un paio di vignette e poi le vedi sul foglio, una di, vabbè, la voglio subito giocare alla figlia di Luna Pop. Chi è Luna Pop, Vincino? Luna Pop, non si chiama Luna Pop, assolutamente, no. è quella la figlia. Dicono che è la figlia di Grillo, no? Luna. Sì. Luna. Esattamente. No, è che papà gli passava le cose, però insomma, vabbè, questo. No, che gli passa. No, non diciamo queste cose. Vabbè, che gli passa. No, per carità, no! Non c'entriamo in queste cose. No, non diciamo queste cose. Il papà non gli passava niente. Luna, la figlia di Grillo, che peraltro non vive più con. Vive con la prima moglie, è stata fermata con due piccole dosi di cocaina. E quindi è stata. Senza pure la prima moglie. Un guaio familiare, è peggio di Petreus questa storia qua, guarda. No, soprattutto smentiamo il padre, non le passa nulla, perché Maurizio Tortorella mi fa subito questi scherzi, Vincino, il padre non passa nulla alla figlia, tantomeno quello con cui l'hanno nel nord succedeva così, a casa c'era il padre che passava al figlio. Sì, ma in questo caso sicuramente vabbè. Non c'entra nulla, no? Perché se no Maurizio, qua sto già sudando. Tirami fuori da queste ambasce, perché sennò vabbè. Subito così, le colpe dei padri non passano su quelle dei suoi figli. Infatti, non passano le colpe dei figli e le colpe dei figli non passano ai padri. Non passano le colpe e non passa niente dai figli ai padri. Ma che famiglie disgraziate e disgregate, qua noi nel sud invece ci passiamo, siamo molto più affettuosi, però vabbè. Allora, ieri è successo questo, per essere molto molto seri, purtroppo, perché che cosa si è assistito in Italia? Scontri di piazza, scioperi che sono degenerati, gli studenti che protestavano, c'è stato anche uno sciopero, ma poi la situazione è degenerata. Oggi, se comprate i giornali, ci sono, come dire, anche la guerra delle fotografie, per dire, due titoli diversissimi. Pubblico di Luca Telese, giù le mani dai ragazzi, c'è la foto di un ragazzo col volto insanguinato, finito colpito, e il giornale invece, volevano il morto e Grillo sta con loro, questo è il titolo del giornale. Ecco, allora, voi tra l'altro avete vissuto, conoscete momenti, no Maurizio, anche più bui e più tristi dell'Italia, delle manifestazioni di piazza. Cosa è successo ieri secondo te? Guarda, io ieri mattina sono uscito da casa per andare a lavorare e ho incontrato, tra gli altri manifestanti, un gruppo di una cinquantina di studenti medi, superiori, come dicevano ai miei tempi, che inalberavano questo striscione: oggi scioperiamo tutto. E allora mi sono fermato, ho guardato loro, ovviamente ho riguardato lo striscione, ho riletto, oggi scioperiamo tutto, e mi è venuta voglia di dire: ragazzi, tornate a scuola, perché ovviamente il verbo scioperare non ha caratteristiche transitive, o scioperiamo tutti o scioperiamo contro tutto, insomma ero un po' turbato dalla grammatica. Poi mi sono ben più turbato vedendo quello che sta succedendo, ovviamente, soprattutto a Roma, ma anche a Milano, ma anche altrove. Hanno scioperato in realtà in tantissimi paesi, hanno hanno le manganellate, oltre che i fumogeni, oltre che le pietre lanciate appunto da studenti contro le forze dell'ordine, sono state più o meno ovunque. Però si può dire che in qualche modo c'era, cioè, una tensione sociale, un qualcosa da attenderci, un qualcosa da aspettare? Sì, ovviamente no, ma io vedi, purtroppo c'è. E manifestava anche grande simpatia nei confronti dei manifestanti, perché soprattutto i giovani, al 35% disoccupati in questo paese, hanno di che preoccuparsi, hanno di che protestare, indubbiamente. Però vedo moltissima, come sempre in questi casi, purtroppo, strumentalizzazione, professionalità nell'aggredire appunto le forze dell'ordine, infiltrati che sono sempre lì pronti a cercare appunto lo scontro purtroppo quando ci si mette poi in queste situazioni ci entra un po' di tutto, no? È tutto così, sì, è un il solito popurrì in cui ci pericoloso. Questo sì. Tra l'altro il Viminale Vincino, il ministro dell'interno, ha detto covo quello è il Viminale, bel covo. Perché guarda, ti dico una cosa, la cosa di ieri, la sensazione è che i più incazzati di tutti erano i poliziotti, che proprio ci hanno messo una foga, una cosa, cioè poi cioè in questo governo di funzionari ministeriali, diciamola tutta, no? È una cosa, però ora stanno andando all'attacco, guarda, come andavano all'assalto a questi poveri ragazzi a manganellare, a picchiarli, no. Io l'ho viste tutte, praticamente dal 1946 a oggi mi sono fatto tutte le manifestazioni che c'erano in giro, no? Meno quelle di ieri, perché non sono riuscito ad andare perché il traffico era bloccato 10 km prima, per cui non si poteva andare. Sì. C'erano tutti i vigili, quello e quell'altro, no? Va bene, che bloccavano, che facevano tutto, però qua questi assaltavano loro. Addirittura. Tu vedi video che tu vedi con gente che li spinge, no? E questi vanno a assaltare gli studenti, ma che cosa vanno a assaltare? In generale, io così, mi ricordavo poi, sempre che noi assaltavamo loro e loro stavano fermi. Lo so, però sui giornali poi vede guerra anche sui siti, guerra di video, i manifestanti che mettono dei video, vedete come hanno aggredito i ragazzi che erano a terra, le forze dell'ordine che mettono i controvideo, guardate che ci hanno tirato i sassi, i sanpietrini, e poi si sa che in queste cose vai a dare la ragione a qualcuno. Però Vincino dice in realtà erano più i poliziotti che avevano voglia di menare le mani. Erano i poliziotti più incazzati di tutti, più arrabbiati forse di tutti. Che li pagano poco, non lo so, come dire, però erano arrabbiatissimi. Non lo so, cioè, io adesso non è che voglio sempre citare Beppe Grillo. Beppe Grillo ha fatto questo invito: poliziotti, in realtà togliete il casco e unitevi ai ragazzi, ecco, che come dire, in questa ribellione sociale che cova e che dovrebbe vedere tutti uniti, ma poi contro chi? Vincino, contro lui, chi? Beppe Grillo è il solito imbecille, come diciamo sempre, ecco, no, praticamente, ammannaggia. Perché poi lui qua prende, oggi si è svegliato contro Beppe Grillo, dopo odio Romero oggi. Perché anche domani dalla lettera dell'avvocato, no? Ecco. Dalla lettera dei due avvocati, i quali parlano in nome del signor Giuseppe, tra parentesi Beppe Grillo, e invico, ma come, quando mai si è vista? Questa l'ho già fatta, una rivoluzione che va avanti con lettera degli avvocati. Cioè, non quando dice per espellere quelli dal movimento. Ma un movimento all'inizio è bello, casini, assemblee, questi casi, si ci bastona, si ci prende a pugni, tutto, no? Ma la lettera degli avvocati mai vista. Mai. Dal 17 non ho messo una lettera avvocati fino a oggi, praticamente. Arriva lui con la lettera degli avvocati. Poi legge le poesie di al contrario, no? La senso? Famosa poesia di Pasolini. Sì. Che io mi ricordo quel giorno mi incazzai moltissimo quando l'ho letta sul Corriere della Sera, mi pare che uscì, no? E lui oggi la legge completamente al contrario. Non era, lui diceva che che succede? No, eccoci qua. Diceva che? No, non ho detto parolacce. No. Perché? Era il contrario, però, insomma, Presidente Pasolini era con i cosi, era con i poliziotti, i studenti erano tutti figli di papà, che poi un giorno sarebbero diventati direttori di giornali, presidenti di case editrici, disegnatori di lusso. Diceva, io sto con i poliziotti, quelli che guadagnano. Divento direttore dei giornali, presidente di case editrici, disegnatore di lusso. Paragonare Pasolini a Grillo, francamente, mi pare No, era la lettura, era la lettura che Grillo ha fatto di quella famosa presa di posizione di Pasolini, no, che faceva arrabbiare Vincino. Però effettivamente ha detto così, sì, io lo so, sia Vincino è contro Grillo, Maurizio Tortorella è contro Grillo, forza, di qualcosa a favore di Grillo, Maurizio, perché qua se no... L'ho detto prima... No, no, a favore di Grillo, che dice ai poliziotti: toglietevi il casco e state con i ragazzi. Ma più che state con i ragazzi, lui dice state con noi, manganellate i politici corrotti, ma è la solita demagogia populista e antipolitica facilissima di Grillo. È proprio la cosa più banale da dire. A proposito di politici... Invitare i poliziotti a manganellare la gente comunque... Chiunque ci sia dall'altra parte, non mi pare francamente molto corretto. Sì, Vincino, a proposito di politici, perché oggi c'è la vignetta sul Foglio con un tecnico, uno del governo che si attacca a un elicottero che va via? Ci saranno abbastanza elicotteri per la fuga dell'odiato governo Monti? Questo è il vero problema, guarda. Vedendo poi là nel Sulcis che riesce a prendere quell'unico elicottero che c'era in Sardegna. Ah, perché Passera è andato via in elicottero dopo. È scappato, ha incontrato. Si ricorda Saigon, no? Sì, come no, la fuga dal Vietnam. I governi popolari sono costretti ad andare via, succede questo. Sì. Bisogna avere gli elicotteri sufficienti. Cioè finirà così, Vincino, finirà con i tecnici che devono prendere gli elicotteri e scappare, ma non credo. Assolutamente, siamo vicinissimi là, no? Dalle immagini che si vedono in televisione dei poliziotti che... di ieri sembra assolutamente questo. Sembra questo. Ho l'impressione che Sallusti sia l'unico che desideri veramente che Sallusti vada in carcere. Volevo solo dire una cosa a tutti gli italiani. Ma quando cazzo vi svegliate? Ma è possibile mai che vi stanno spogliando di tutto e non ve ne siete ancora accorti? Dovete ribellarvi, bisogna fare la guerra. Alessandro Milan, sei troppo mite. Il tizio della Valle del Belice, del terremoto, eccetera, quella è una compravendita di voti, signori miei. Né più né meno. Grazie. Vorrei solo pregarla di occuparsi delle famose quote latte. Sono bei soldini che dovremmo pagare di multa e sono bei soldini che potremmo invece incassare. Qualcuno vuole parlare del terremoto in Emilia, porco cane, che dopo 6 mesi ci vogliono far pagare tasse e contributi immediatamente. Ma vi rendete conto che schifo che è l'Italia? Radio 24, le mazzate si sentono. Non occorre essere economisti tipo Keynes o chissà chi per capire che finché si tolgono i soldi in tasca alla classe media non ripartirà mai nulla. Tu sei il mio giornalista preferito e mi alzo tutte le mattine presto per seguire la tua trasmissione. L'unica cosa che non sono in linea con te è la tua fede sportiva. Per cui dopo la partita di domenica, Milan-Fiorentina, ti mando un caro saluto, ti rincuoro, tre pere e a casa. Forza Viola! Maledetto questo ascoltatore che ride delle macerie altrui del mio povero Milan e anche di Maurizio Tortorella. Però Maurizio è un milanista un po' un po' laico, così insomma. Siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e con Vincino, il direttore del Male. Vi voglio far ascoltare Di Pietro. Avete sentito la vicenda Maruccio Vincino, 100.000 euro a videopoker, eccetera. Ci sente Vincino, no? Sì, eccoci sì. Qua. Sentite Di Pietro cosa dice l'inizio di questi TV sulla questione videopoker. Una spiegazione che insomma, sentite, eh? Personalmente non sapevo neanche che esistevano le come si chiama, sale slot machine, che non ho mai visto in vita mia. Non sapevo neanche che né conoscevo questa persona, ma questo fatto che ci siano dei politici o dei leader politici che vogliono scusarsi perché le cose sono avvenute a proprio insaputo non va bene. Non va bene, però non sapevo neanche che esistessero le sale poker, le sale slot machine, ma stanno, cioè, ce n'è una ogni angolo di strada ormai, Vincino. Assolutamente, tutti i bar siamo pieni di macchinette. Di Pietro non sapeva che esistessero sale poker, e che sono? Di fiducia, l'ha messo dappertutto, l'ha messo nel Lazio, l'ha messo di qua, ora come poi... si può sbagliare. Quasi sempre, non è beccato uno praticamente. Tutti i suoi soci sono tutti litigati con tutti, quelli con cui ha fatto elezioni insieme. E peraltro tutte persone degnissime in un certo senso, da un punto di vista di soldi, no? Sì. Io l'ex sindaco di Pavia, Veltri, Elio Veltri, sì. Sì, che è quello che lui ha querelato. Ero militare a Pavia, mi hanno arrestato in caserma perché avevo fatto un comizio contro l'esercito da militare. No, vabbè, ma Vincino, uno va al militare e fa un comizio contro l'esercito. Ma se l'è meritato, L'ho fatto a Milano, però non a Pavia. Ho capito. Torno in caserma a Pavia e vedo tutti che dicono, mamma mia, che succede? Arrivo e metto dentro. Bene, il giorno dopo, o due giorni dopo, il sindaco di Pavia ha fatto una cosa a mio favore. E poi una settimana dopo, 10 giorni dopo, e fissa in metà, sono uscito pure io, perché l'ho fatto questa cosa qua, pensa, 2 giorni che finivo il militare. Una cosa di... Tortorella, che gli dobbiamo fare a Vincino, uno che fa i comizi? Un monumento. No, ma Di Pietro che dice non sapevo, no, per carità, poi ha detto non è che voglio fare quelli a mia insaputa, però non sapevo neanche che esistessero le macchinette videopoker, queste sale, come si chiamano? Sale, slot. È un po' poco credibile, diciamo. Sì, beh, adesso lui poi ha cercato anche di mettere una distanza fra sé e Maruccio, ma invece Maruccio è ben conosciuto a Di Pietro, era il segretario regionale dell'IDU, avevano contatti di ogni genere, insomma sapeva benissimo con chi era a che fare. No, ma questo sì. Allora io vi devo chiedere una cosa sul, non è che voglio farvi parlare della riforma elettorale, se no vi riaddormentate in diretta, ma anche perché l'editoriale migliore oggi è la vignetta di Altan in prima pagina di Repubblica, con l'omino, no, l'uomo di Altan che lancia la monetina seduto in poltrona, legge elettorale, si tira a sorte, chi ha più culo governa, questo è Altan. Però io devo chiedere a Maurizio Tortorella, perché la copertina di Panorama oggi, come dire, il titolo è La pillola sfascia famiglie, e lo dico anche a Vincino, cosa mette in prima pagina Panorama? La pillola di Viagra, Viagra. E come va? Guarda, il dato è interessante, perché i dati delle separazioni in Italia sono oltre i 60 anni, sono oltre i 65 anni, sono negli ultimi 10 anni raddoppiate, da 5.000 a quasi 10.000. Gli psicologi, i sessuologi che noi abbiamo contattato sostengono che il fenomeno ha un'origine assolutamente farmacologica in grandissima parte, cioè che i maschi italiani riscoprono, anche se un po' agé, a un certo punto sbroccano, se mi permetti il termine. Io ho detto riscoprono, ho detto sbroccano. Hai ragione tu. Vabbè, quindi l'origine della distruzione di tante famiglie è il Viagra, ingrigite a quella causa. Cioè, l'aiutino, il Viagra, che le separazioni siano aumentate moltissimo in fasce d'età più alte, questo è un dato di fatto che anche l'Istat certifica. Però è interessante questa spiegazione. Non so se Vincino. Ovviamente sono nel frattempo, il Viagra è in Italia da 15 anni, poi sono arrivati altri farmaci equivalenti. Ma le modifiche dei comportamenti, diciamo così, sociali oltre che sessuali, sono impressionati in tutte le fasce d'età. Ah, questo sì. L'inchiesta lo racconta piuttosto bene. Vincino, non so se... L'aspetto della gerontocrazia, questa cosa è stupenda. Ma non sapevo che lo passava il dottore. E come no? Certo che lo passa il dottore. Io non credevo che no. Allora me lo faccio. Sono indietro, vedi? Mi occupo troppo di politica, non capisco il paese reale più. Bisogna andare dal dottore, Vincino. Assolutamente. Perché sennò ci vuole la prescrizione. È un farmaco anche... E la voglia c'è con l'età, non finisce ma aumenta, questo lo noto pure io. Non è che mi sveglio certe mattine che se non c'ho un telefono con la radio, sennò sono già fuori a cercare disastri. meglio allora vediamo un appuntamento quotidiano con Vincino, evitando disastri. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate,

Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Eccolo qua, questo è il numero della nostra segreteria telefonica in attesa. Si prende tempo quando succedono queste cose in diretta. Se volete faccio un po' di balletti, anche se in radio purtroppo non si vedono, visto che non si vede neanche l'onorevole Bruno Tabacci alle viste, visto che il suo telefono è occupato. Allora, visto che sentiamo segreteria telefonica, alcuni dei vostri messaggi che abbiamo mandato anche in onda alle 6.45, le vostre voci nella nostra segreteria. Ho l'impressione che Sallusti sia l'unico che desideri veramente che Sallusti vada in carcere. Volevo solo dire una cosa a tutti gli italiani. Ma quando cazzo vi svegliate? Ma è possibile mai che vi stanno spogliando di tutto e non ve ne siete ancora accorti? Dovete ribellarvi, bisogna fare la guerra. Alessandro Milan, sei troppo mite. Il tizio della Valle del Belice, del terremoto, eccetera, quella è una compravendita di voti, signori miei. Né più né meno. Grazie. Vorrei solo pregarla di occuparsi delle famose quote latte. Sono bei soldini che dovremmo pagare di multa e sono bei soldini che potremmo invece incassare. Qualcuno vuole parlare del terremoto in Emilia, porco cane, che dopo 6 mesi ci vogliono far pagare tasse e contributi immediatamente. Ma vi rendete conto che schifo che è l'Italia? Radio 24, le mazzate si sentono. Non occorre essere economisti tipo Keynes o chissà chi per capire che finché si tolgono i soldi in tasca alla classe media non ripartirà mai nulla. Tu sei il mio giornalista preferito e mi alzo tutte le mattine presto per seguire la tua trasmissione. L'unica cosa che non sono in linea con te è la tua fede sportiva. Per cui dopo la partita di domenica, Milan-Fiorentina, ti mando un caro saluto, ti rincuoro, tre pere e a casa. Forza Viola! Ringrazio allora il nostro tifoso della Fiorentina. Questo è il numero occupato di Bruno Tabacci. Abbiamo parlato con lui alle 8.10, ha detto sì sono qui, sì sono alle 8.20, sono pronto, eccoci qua, sono le 8.22 minuti, non so il numero che facciamo è quello giusto, è occupato. Che vi devo dire, cari ascoltatori, sono gli imprevisti della diretta. Se vogliamo provare un'ultima volta, poi mi sono anche abbastanza spazientito, possiamo anche andare tranquillamente un attimo e serenamente in pubblicità tra 2 minuti e andando in pubblicità. Poi vi ricordo che avremo il direttore del giornale Alessandro Sallusti ospite tra un attimo, con il senatore della Lega Nord Sandro Mazzatorta, che è il primo firmatario di quell'emendamento della Lega che propone e ha reinserito il carcere per i giornalisti. L'onorevole Bruno Tabacci risponde, è occupato, è libero, è occupato. Sono le 8.27 minuti, allora eccoci qua, vogliamo parlare ancora della legge sulla diffamazione a mezzo stampa, la possibilità del carcere per i giornalisti, lo vogliamo fare con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, che è venuto a ritrovarci. Buongiorno e ben ritrovato, direttore. Buongiorno a voi. Saluto anche il senatore Sandro Mazzatorta della Lega Nord. Buongiorno senatore, eccoci qua. Buongiorno a voi. Lei è anche avvocato, lei è l'autore dell'emendamento che è stato votato a scrutinio segreto e che è passato 2 giorni fa e che prevede anche come estrema razza, adesso lei ci spiegherà in che termini, la possibilità del carcere per le condanne per diffamazione a mezzo stampa. Le segnalo che Roberto Maroni, il suo numero uno del suo partito, ha fatto un'intervista oggi proprio al giornale, dopo che ieri Alessandro Sallusti aveva criticato duramente nel suo editoriale, proprio prendendo di mira la Lega, i leghisti, i politici della Lega. Roberto Maroni dice: è stato un errore, un cortocircuito di informazione, mai un giornalista in carcere. Io avevo spiegato la nostra posizione assolutamente contraria al carcere, ma c'è stato un cortocircuito perché il senatore Mazzatorta si è accorto che dal testo erano state cancellate le norme a tutela del diffamato. Allora, intanto ci spieghi, lei è per il carcere come estrema razio per i giornalisti che sbagliano e diffamano? Senti, facciamo un po' di chiarezza. Oggi il carcere per i giornalisti che diffamano con attribuzione di un fatto determinato è previsto dalla legge sulla stampa. Sono 6 anni di reclusione. Questa norma è in vigore da 64 anni. Cioè noi abbiamo delle norme penali che prevedono per la diffamazione a mezzo stampa sia per la fattispecie semplice, quella cioè senza attribuzione di un fatto determinato, la reclusione sino a 3 anni, e con attribuzione di un fatto determinato la reclusione sino a 6 anni di carcere, oltre alla multa. Questa è la situazione vigente. Siamo passati da questo estremo folle, che però per 64 anni nessuno ha considerato folle, all'altro estremo folle, per cui la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato verrebbe punita con una multa di 5.000 euro, riducibile di 2/3 se c'è la pubblicazione della rete. Si poteva aumentare questo, cioè dal punto di vista colpire, dal punto di vista economico. Noi avevamo sostenuto la prima versione del disegno di legge, quella uscita dalla commissione, dove c'erano 2 relatori del PDL e del PD, che aveva una sua logica, perché prevedeva il passaggio dal carcere, 6 anni di reclusione attualmente vigenti, ad una sanzione pecuniaria, ma seria, che era 100.000 euro, perché qui stiamo parlando. Le faccio un esempio: se io scrivessi sul giornale che Milan è un notorio pedofilo, distruggo la reputazione, distruggo l'onorabilità, distruggo il valore sociale della persona Milan, e lo distruggo scientemente, consapevolmente, volontariamente. Sì. E questo qua che valore ha? È un bene che va tutelato seriamente? Noi diciamo di sì, non con 5.000 euro di multa. E va bene, fino a 100.000, ma perché poi invece è rispuntato, tra l'altro con un voto segreto, la possibilità anche del carcere? Perché noi abbiamo evidenziato che alla fine questo primo disegno di legge è stato messo nel cassetto perché c'erano i veti di una piccola lobby di giornalisti molto vicina al Partito Democratico, che a cui non andava bene quella soluzione, non andavano bene per esempio le sanzioni accessorie dell'interdizione della professione. Chi sarebbe questa, mi tolgo la curiosità, chi è questa piccola lobby vicina al Partito Democratico? Sa che il Presidente della Federazione della Stampa si è schierato da subito contro quel disegno di legge, e ovviamente la relatrice del Partito Democratico si è addirittura dimessa. Presidente del FNSI, cioè del sindacato, avrà la sua posizione sindacale, ma è lui, fa parte di una piccola lobby vicina al PD, secondo lei? Cioè certamente in questo momento in cui hanno una campagna elettorale per le primarie, hanno ritenuto opportuno assecondare, diciamo, delle richieste sbagliate di riduzione drastica delle pene pecuniarie, arrivando a configurare la diffamazione grave a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato, che è quella più spregevole, con una semplice multa pecuniaria di quell'importo. Sì. A noi non poteva andare bene una soluzione del genere. E quindi il carcere. Però ha sentito che Maroni nell'intervista, diciamo, dice che è stato un errore, non mai un carcere per un giornalista. Partendo dal presupposto che oggi i giornalisti hanno una sanzione detentiva di 6 anni in caso di diffamazione aggravata, noi abbiamo proposto una sanzione alternativa per l'ipotesi, ripeto, più grave, la multa o la reclusione sino a 1 anno. Lei pensa che se lei dà un calcio a un cane, i maltrattamenti di animali sono puniti al codice penale con 1 anno di reclusione. Okay. Io mi chiedo, è normale che in un codice penale il maltrattamento di un gatto sia punito con 1 anno di reclusione e invece la distruzione di una persona nella sua valore sociale viene punito con una sanzione di 5.000 euro? Allora, per carità, Alessandro Sallusti, non vogliamo paragonare il direttore di un giornale, in questo caso lei, a gatti o cani, mi attacca questo il discorso di Mazzatorta. È prima c'erano 6 anni di carcere, noi prima abbiamo alzato a 100.000 euro, poi abbiamo comunque previsto un carcere che in estrema ratio è ridotto di 1 anno a 1 anno di reclusione massimo, perché insomma non è che si può prendere la reputazione di una persona e farne polpette su un giornale. Intanto una risposta a questo e anche il perché del suo editoriale molto duro ieri nei confronti della Lega. Lei si è presa molto con i leghisti, che sono gli autori di questo emendamento. Guardi, faccio una premessa veramente sincera, che io me la sono presa con i dirigenti della Lega e non con gli elettori leghisti, che essendo io del nord del Lago di Como ben conosco e so che sono ben lontani dalle posizioni espresse ieri in Senato dai loro rappresentanti. È brutto iniziare la giornata a essere presi per i fondelli da una persona, in questo caso il senatore, però questo ci tocca. Io ho passato credo 20 anni della mia carriera a fare da megafono a rappresentanti della Lega che davano dei ladri agli zingari, dei puzzolenti ai terroni, dei terroristi a quelli di AN. Ho difeso Castelli che ha dato del terrorista, fatto attribuzione specifica, persona specifica, ha dato del terrorista a un suo collega, credo di Liberto. Sprangatore. Di Liberto. Bossi è stato condannato per diffamazione aggravata, credo, una ventina di volte. Avete insultato il capo dello Stato, la bandiera, ne avete fatte di tutti i colori e io mi sono prestato, per ragioni di cronaca e di dovere professionale, a farvi da megafono. Allora io devo andare in galera per gli insulti che lei e per le diffamazioni specifiche che lei fa ai gatti, non ai gatti italiani, ma fa a persone specifiche, a categorie di genere italiane. E mi risponda a questa domanda. Senatore Mazzatorta, è un Sallusti molto, molto non recede di un passo, anzi molto arrabbiato. Poi gli chiederò anche se non si è pentito a questo punto di essersi prestato a fare da megafono. Mazzatorta. No, guardi, Sallusti ha subito 3 processi e la magistratura, Tribunale Milano, Corte d'Appello di Milano e Suprema Corte di Cassazione lo hanno condannato. Io ho letto la sentenza della Corte anche di Cassazione, Bossi, sono 26 anche Bossi, pagine. Anche Bossi, lei mi spieghi perché Bossi a piede ma libero... Bossi ha subito una condanna per diffamazione e... No, una, decine di condanne, non una, certo, decine. Certo, ma non per questo abbiamo modificato il codice penale, per cercare di evitare la diffamazione semplice, perché noi non siamo giornalisti, quindi ricadiamo... Ma perché non è... Allora, lei che non è giornalista può dare del ladro a una persona. Io che sono giornalista non posso. No, guardi, direttore, lei sa bene che... Voi avete una valanga di cause di giustificazione che sono praticamente le scriminanti del diritto di critica, di cronaca. Avete almeno una decina di cause di giustificazione che si applicano solo nei processi penali dei giornalisti. Quindi non siete maltrattati dalla però, senatore, italiana, le assicuro. Ma non risponde alla mia domanda. Sì. Perché lei può dare, perché lei può prendere a calci un gatto senza che nulla accada? No, io se do il calcio le dico io invece che come è possibile che perché uno prende a calci un gatto si prenda un anno di reclusione e invece se un giornalista distrugge una persona nella sua reputazione non va in deve caso. Ma perché lei no? Vuole farla arrivare sul fatto, credo, della sorta di immunità che non c'è più in questa formula parlamentare, questo Sallusti. Ma tra l'altro non è solo una questione di immunità, è una questione di ipocrisia. Perché quando lei va da un giornalista e rilascia un'intervista e dice gli zingari sono ladri, cioè insulto di genere, lei si prende la responsabilità di quello che dice o sta scherzando come ha scherzato ieri in Senato? No, guardi, direttore, lei non è stato condannato per questo, è stato condannato per un articolo di stampa. Poi, ripeto, la sua vicenda non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando. Beh, come noi dobbiamo no, la legge, legiferare non la, solo per il caso Sallusti. La legge però è nata per quello. Il codice penale, la legge, la proposta di legge è nata per quello, per evitare il carcere Alessandro Sallusti, al quale tra l'altro adesso voglio chiarire una cosa, Sallusti, perché qui ci sono molti ascoltatori, noi l'abbiamo mandato anche nella nostra segreteria, che ci dicono e ci chiamano e dicono ma secondo noi quello più felice tra mille virgolette di finire in carcere o l'unico che veramente ci tiene è Sallusti stesso. Certo. Cioè, ci aiuta a capire, lei rischia veramente il carcere? Perché anche oggi ho letto in realtà che la procura potrebbe dimenticarsi di eseguire la sentenza, che in realtà si troverà una soluzione. Cioè, quando rischia il carcere, come giorno e davvero se lo rischia? Guarda, io dipende da come stanno facendo di tutto per non mandarmi in carcere, perché si vergognano di mandarmi in carcere. Dal punto di vista tecnico, se io fossi un cittadino normale sarei già in carcere. Non essendo un cittadino normale sono ancora a piede libero, ma più in là di un periodo di tempo che va da sabato, cioè tra 2 giorni, a venerdì prossimo non possono più lasciarmi a piede libero. Ma io non è che sono felice di andare in carcere o cerco di andare in carcere, voglio fare l'eroe per andare in carcere. Io voglio smascherare l'ipocrisia di gente come il senatore col quale stiamo dialogando, che ieri ha detto diamo il carcere ai giornalisti tanto poi non vanno, o dei magistrati che si permettono di definire delinquente abituale un giornalista che tra l'altro non ha nessun precedente penale come sono io, e poi dicono vabbè, ma poi dopo lo mettiamo magari domiciliare, vediamo. Cioè voglio smascherare l'ipocrisia di un sistema che gioca con la vita delle persone e non ha il coraggio di assumersene la responsabilità. Quindi voler andare in qualche modo stanarli su questo fronte, voler andare un po' fino in fondo a questo punto, volete darmi il carcere, allora abbiate il coraggio di farlo. Un po' c'è questo, se mi permette la parola, gioco a voler dire, beh allora abbiate il coraggio di andare fino in fondo, insomma. Ma direttore continua a dimenticare che oggi è previsto il carcere per i giornalisti per 6 anni di reclusione. Lui ha preso qualcosa di più del minimo edittale, che è da 1 anno a 6 anni, ma questa è la norma vigente. Noi abbiamo cercato di togliere questa sanzione detentiva così pesante, ma di graduare delle sanzioni pecuniarie ragionate e proporzionate. Ma mi scusi, senatore, al di là del caso Sallusti, il senatore non sa di cosa stiamo parlando. Non sa di cosa stiamo parlando. Va bene, direttore, sta tutto lei. Perché c'è una norma del codice Rocco che prevede questo, ma è talmente, come dire, difficile, impossibile. Non è il codice Rocco, direttore, è l'articolo 13 della legge sulla stampa. Che nasce dal codice Rocco. No, non nasce dal codice Rocco, che è del 1930, la legge sulla stampa è del 1948. Sì, che nasce, che proviene. Va bene, nel 48, siamo nel 48, dopo il fascismo, e non a caso viene fatta quella norma, dopo il fascismo. Va per tutelare la reputazione delle persone. Un attimo, Mazzatorta, sentiamo. Non si arrabbi, siamo nel 48. No, mi arrabbio, direttore, perché se lei dice delle falsità, no, sapendo che non andrà mai in carcere, lo sa benissimo, perché c'è l'articolo 156 del codice di procedura penale, perché c'è la legge Severino. Senatore, non mi quereli, la prego, siamo nel 2010 e abbiamo un attimo, Mazzatorta, sentiamo Sallusti su questo. Dicevo, non mi quereli, senatore, è una legge del 1948, mi scusi se sono stato impreciso, ecco, di qualche anno, siamo nel 2012 in Italia. Bravo, questa legge dal 48, questa legge dal 48 oggi, pronto? Sì, eccoci qua, Sallusti, ci siamo. E questa legge dal 48 oggi è stata applicata 3 volte a Guareschi, a Iannuzzi e adesso a me. Perché è stata applicata così poche volte? Perché è difficilissimo applicarla, e tanto è vero che io non vado in carcere per diffamazione, che non sarei andato in carcere, ma vado in carcere perché un magistrato fetente si è permesso di applicarmi l'articolo 133 del codice penale, che dice che io sono socialmente pericoloso. Sallusti, però devo fare anch'io quello che dico, che si assume la responsabilità di quello che dice, assolutamente. Perché, no, voglio dire, sennò poi dopo e io me ne assumo la responsabilità, perché del delinquente abituale a me nessun magistrato si può permettere di darmi, mentre con la legge che avete approvato ieri non c'è bisogno che il fetente di turno dica che un giornalista è socialmente pericoloso, basta che lei adesso mi quereli perché le sto antipatico e un magistrato dice sì, è vero, Sallusti in trasmissione ha offeso il senatore, e io vado in carcere. Sì, però la questione è Sallusti qui, che poi se un magistrato sente e dice lo querelo che perché è antipatico, la assolverà, perché voglio dire non è un'accusa che sta in piedi. No, io guardi, sono stato, non io, ma vuol dire il mio giornale, è stato condannato a risarcire per diffamazione il senatore Di Pietro, perché avevamo scritto che c'erano delle ombre sull'acquisto delle case dell'IDV. Poi, come dire, anni dopo si scopre che era tutto vero e che le ombre ci sono, e come, tanto è vero che sta succedendo quello che sta succedendo. Allora, voglio dire, il problema è che io sono d'accordissimo a riformare il carcere per i giornalisti, la pena di morte per non so chi e quant'altro, ma finché non riformiamo A, la politica, e B, soprattutto, non riformiamo la giustizia, non se ne esce, perché il potere discrezionale con cui un magistrato può decidere questo direttore sì, questo direttore no, questo giornalista sì, questo giornalista no, e non se ne esce. Ma allora, senta, lei... riformiamo, diamo anche però un po', non dico il carcere, ma diamo un po' di sanzioni, caro senatore, ai magistrati che sbagliano. Lei... perché se lei oggi è lì a discutere di una legge, lei ammette in qualche modo, perché sennò non credo che abbia cose più interessanti da fare, che quella sentenza è sbagliata, perché sennò oggi il Parlamento non sarebbe lì a discutere. Allora quel magistrato che ha emesso quella sentenza che il Parlamento ritiene sbagliata, ma vogliamo fargli qualcosa a quel magistrato? Beh, però su questo la sentenza, devo dire, è passata in giudicato, al limite giudicherà il CSM, ma su questo guardi che il senatore Mazzatorta è avvocato, quindi magari sulla responsabilità dei giudici potrebbe avere qualcosa da dire. Però prima di tornare da lui, le chiedo, Sallusti, lei si è pentito di aver fatto una megafono in tutti questi anni alle posizioni che ci ha prima elencato? Assolutamente no, e vorrei continuare a farlo all'infinito. Basta però che qualcuno se ne prenda le responsabilità, che non lasciano noi col cerino in mano. È vero che la stampa deve fare da carne da guardia, eccetera, eccetera, ma deve fare anche da megafono a posizioni anche estreme, difficili. Ma il fatto che siamo alle prese con dei furbetti, che ripeto, che chiamano i giornalisti, rilasciano interviste per dire che Tizio è un ladro, che Caio è un mascalzone, e poi dopo dicono no, ma io ho l'immunità parlamentare. Lei può rinunciare all'immunità parlamentare, senatore, quando dice quello che dice. A proposito, senatore Mazzatorta, ma guardi che nell'intervista che Maroni ha rilasciato proprio al giornale, perché poi c'è anche dietro un qualcosa per cui Sallusti ha detto ma Maroni mi ha mandato un libro con dedica autografata dicendo e l'ha mandata solo a me, insomma, come direttore di giornale. Ad altri, Maroni dice, non l'ho mandato ad altri direttori, per cui si è anche arrabbiato per questa scena. Maroni dice, è un pasticcio, è una provocazione che ci è sfuggita di mano, alla quale dovremo porre rimedio. Ecco, Mazzatorta, lei, cioè, cosa succederà ora al Senato? Cosa vuol dire se Maroni dice è stata una provocazione della Lega che poi è sfuggita di mano? Vuol dire che noi abbiamo messo in evidenza che quell'accordo blindato imposto dal Partito Democratico era un accordo fasullo, che non ha retto alla prova dell'Aula, ma che in realtà l'Aula voleva tornare al testo originario, che prevedeva delle sanzioni pecuniarie ma serie e delle sanzioni accessorie altrettanto serie. No, il discorso del caso Sallusti è un discorso particolare su cui purtroppo c'è anche una sentenza irrevocabile ed è quindi tecnicamente difficile risolverlo. Quello che è sbagliato, e sono d'accordo col direttore, è l'articolo 13 della legge sulla stampa, e noi stiamo cercando di modificarlo, oggi prevede 6 anni di reclusione. Noi siamo disponibili martedì a tornare su una sanzione pecuniaria, ma seria, non 5.000 euro riducibili di 2 terzi. Quindi siete pronti a dire... Non è serio. Siete pronti? Mi fa un piacere, sì. Senatore, io le chiedo una cortesia, lasciate perdere, perché prima è troppo tardi, perché mettiamo pure che martedì ci tornate, quindi poi dopo deve andare alla Camera, poi sarà cambiata, tornerà indietro, per cui se volete farlo per evitarmi il carcere è troppo tardi, non serve. Ma io vi scongiuro, lasciate perdere. In carcere, facciamo una scommessa, ci risentiamo tra due mesi, tre mesi. Perché il carcere non ci va, perché neanche se va a bussare il portone di San Vittorio. Ma allora perché tutti fate una legge che prevede il carcere se lei dice in carcere non ci va nessuno? Ma siate seri una volta. Allora, se dite che c'è una legge, che siamo una legge italiano, perché bisogna in carcere, andare in carcere, non ci qualcuno dovrà andare in carcere. Ma questa non è colpa nostra. Se abbiamo delle norme, seri, dei codici di procedura penale che evitano il carcere sino no, a condanna. Ma fate così, devo dare le informazioni sul traffico, però è questo il punto, perché ci si sta rovellando da giorni e il senatore Mazzatorta ancora oggi dice quello che tra l'altro anche il senatore D'Ambrosio e il Partito Democratico già le aveva detto Sallusti, cioè lei non andrà in carcere, facciamo una scommessa, neanche se bussa al portone del carcere. E allora è questo il punto sul quale vorrei capire qualcosa in più tra un attimo, anche il nostro ascoltatore, l'800 24 00 24, ci sono Severino da Brescia, Davide da Milano, magari hanno delle considerazioni da fare con i nostri ospiti. Siamo con Alessandro Sallusti, che ricordiamo ha 14 mesi di carcere da scontare, sentenza definitiva, e con il senatore Sandro Mazzatorta della Lega, che è il firmatario dell'emendamento votato a scrutinio segreto che prevede le modifiche alla legge sulla diffamazione a mezzo stampa e ha reintrodotto in questa discussione anche l'estrema ratio del carcere fino a un anno. Sentiamo Davide da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Intanto vi ringrazio per avermi chiamato, ma io faccio grazie una considerazione, cioè, vorrei spersonalizzare il discorso e semplicemente chiedermi se è corretto oppure no che un giornalista che fa un articolo sul giornale palesemente basato su dati falsi o distorti e quant'altro sia colpevole e responsabile di quello che ha scritto. Secondo me sì, perché sennò torniamo in un paese non civile. Questo sì, il problema è che sia responsabile se uno diffama, certo, questo c'è, nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che come comportarsi in quel caso, in caso di condanna? Secondo lei il carcere è una possibilità anche in caso di... Ma secondo me sì, e oltretutto in un paese civile, probabilmente negli Stati Uniti, un giornalista che scrive una cosa palesemente falsa è distorta, non scriverà mai più nessun giornale del mondo. Noi invece abbiamo giornalisti che scrivono cose palesemente false o palesemente diffamatorie e il giorno dopo tornano a scrivere sul giornale esattamente come il giorno prima. Questo vale anche per i politici. Io trovo indegno che ci siano personaggi, nello specifico della Lega, ma anche di altri, che si permettano di insultare la bandiera, che si permettano di insultare il Presidente della Repubblica, parandosi dietro la libertà di pensiero, il diritto politico e quant'altro. C'è un problema di educazione, di moralità che va rispettata. Grazie. Nessuno in questo momento lo sta facendo. Grazie Davide. Severino da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Sì. Anch'io mi allineo un po' con qualche precisazione all'ascoltatore di prima. Il concetto è come difendere la trasparenza dell'informazione e su questo mi vengono due considerazioni. La prima, io sono un professionista contabile, diciamo, faccio di mestiere prevalentemente il revisore. Recenti modifiche normative hanno sulla nostra professione previsto il penale, quindi teoricamente il carcere, qualche norma c'era già, laddove ci fossero delle dichiarazioni false nel nostro mestiere, perché si ritiene che se le banche, se i creditori di un'impresa fanno affidamento su quel che dice un revisore e questo ha fatto male il suo lavoro, questo debba essere punito con il carcere. Quindi dico, bisogna trovare quantomeno una coerenza, se questo vale per un commercialista di provincia, mettiamola così, deve valere anche per un giornalista. Può anche valere anche per un giornalista. Rispetto a quello che diceva Sallusti della del perché il senatore Mazzatorta o qualunque altro politico può dare del ladro, è premesso che mi dà fastidio istintivamente questo atteggiamento, questa logica, ma detto questo, perché lui sì e il giornalista no, è chiaro che se il senatore Mazzatorta o io che nel mio piccolo locale di Orzinuovi della provincia di Brescia sono un amministratore di periferia, critico qualcuno, è chiaro che lo sto facendo di parte. Chi mi ascolta, il cittadino di strada, sa che sono di parte. Il giornalista, fino a prova contraria, questa forse è l'ipocrisia che invece va svelata, non deve essere, neutro. Appare neutro. Grazie Severino. Sallusti vuol rispondere ai due ascoltatori e poi il senatore Mazzatorta. Sì, dico il principio è quello che dicono gli ascoltatori, che nessuno è un C'è il cellulare se un giornalista, ma chiunque, per esempio paradossale, prima dice un signore è pedofilo e si scopre. Però no, cioè, Sallusti, c'è il cellulare che va e viene, vediamo un attimo se si può fermare un attimo perché abbiamo perso parte delle parole che ha detto. Senatore Mazzatorta, le chiedo questo, cos'è? È stata anche un po' una vendetta della casta, quella che è identificata come casta, contro un'altra casta, quella dei giornalisti? Guardi che molti hanno detto questa teoria, cioè come dire, voi ci criticate, noi siamo la casta, zac, eccola lì, e noi guardi, vi manteniamo il carcere. 131 senatori hanno votato, sarei in segreto. Faccio a dirle che tutti e 131 hanno votato perché hanno capito il nostro tentativo di riaprire una discussione su questo tema. Alcuni sicuramente hanno votato anche con altre finalità e altri obiettivi. Sono trasversali, le assicuro, ho avuto segni sia dal Partito Democratico che dal Popolo delle Libertà di senatori che hanno votato. Quello che va chiarito, i lettori e i suoi ascoltatori l'hanno perfettamente chiarito, è che un conto è il caso Sallusti, che ha delle sue peculiarità, e un conto è legiferare anche per il futuro, perché Sallusti non è l'unico giornalista sulla terra, ce ne saranno ancora altri. Sì, però tutto nasce per evitare il carcere da Sallusti, cioè questa corsa. Caso Sallusti, non sulla base di un accordo, di una ma perché lei dice scommettiamo che non va in carcere? Scommettiamo perché? Ma sulla allora base quello di è pacifico, ma quello ma in che purtroppo senso? È nell'ordine delle cose e del nostro codice di procedura penale, della legge Severino, ci sono una valanga di misure alternative anche alla detenzione. Ma lui non le chiede, Lo so, però se lei legge l'articolo 656 dice se la pena detentiva non è superiore a 3 anni il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, punto. Quindi se uno ha una pena carceraria sino a 3 anni in carcere non ci va neanche sotto torture, neanche se suona al citofono tutti i giorni, non ci va. Detto questo, il problema della diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato rimane in tutta la sua gravità. Io gli do 3 dati che nessuno ha voluto dare. In Germania la legge del 1949, sezione 188, prevede per questa fattispecie la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La Francia, articolo sì. 32, legge del 1881, un anno di reclusione e 45.000 euro di multa. Il Belgio, la reclusione sino a un anno e un'ammenda. Quindi c'è in realtà, Sallusti, io devo chiudere. Intanto l'idea, dice Mazzatorta, lei non ci andrà in carcere. Questa cosa... No, io me lo auguro. Ma trovo tutti gli ipocriti vigliacchi, perché il senatore ha appena sostenuto che chi sbaglia deve andare in carcere, e allora perché dice ma tanto non ci vai? Cioè, siamo di fronte a un circo, a una saga dell'ipocrisia di nessuno che vuole prendersi la responsabilità di quello che fa e dice, che è veramente di un paese di Pulcinella. Lei sia coerente, se il giornalista, lei ritiene che un giornalista che sbaglia in buona fede, come è successo a me, anzi io non sono neanche l'autore dell'articolo, magari quel giorno lì non ero nemmeno al giornale per quello che ricordo io, e per un messo controllo si becca il carcere di una cosa che non è diffamante sul piano sociale, è un errore tecnico, perché quella ragazza ha abortito, sì, lui era giudice tutelare, no? Dice no, ma non ho fatto io la sentenza, benissimo, ti do 30.000 euro perché ti ho disturbato, dice no, devi andare in carcere. Allora abbiate il coraggio di quello che fate, se ritenete che un giornalista debba andare in carcere, vada in fondo, ci vada fino in fondo. Allora fermiamoci qui, tanto ci ritorneremo per informazione. Bruno Tabacci, che era occupato al telefono, stava realizzando un'intervista con Italia 7, mentre pochi minuti prima aveva detto sì sì sono con voi. Ci fermiamo qui, a domani.